E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi diverrebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero, non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo dell'estate, riscoprendo le canzoni andate in voga negli anni in cui la gente ascoltava Mina, Toni Dallara, e dagli e dalla, dall'ora di acqua marcia sotto i ponti ne è passata. Metti che domani il vino d'annata fosse proibito perché ritenuto dannoso. E se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri. Non sarei afflitto dal problema dell'affitto. Il mio motto diverrebbe amo stare sopra, lato destro oppure sotto. E se domani la TV non esistesse più, niente scotti, né magari fare l'amore illuminati dalla luce di un lume, e quando diremmo la parola canali, ci verrebbe in mente soltanto la parola fiume.